20 e 20. Un numero doppio, un anno singolare. Tre viaggi in un podcast. 1. Vetro. Avevo iniziato l'anno bevendo porto e ascoltando Mr. Jones. Sola. Questa è la domanda che da anni mi viene posta all'ingresso di qualsiasi locale pubblico. Sì, sola. Dietro le spalle molte persone, ma non entrano con me. Il Capodanno quindi è stato solitario e lento. Allo scoccare della mezzanotte ho letto l'ultima riga di Marni con un po' di disappunto, non a causa del solito scarto tra libro e film. Hitchcock nel 1964 ha raccontato una storia migliore di quella che Winston Graham aveva scritto 3 anni prima? E nel film c'era più Hollywood, psicanalisi o romanzo? È molto più semplice. 2 letture in 2 momenti lontani nel tempo, e cioè Hitchcock, un pomeriggio in un cinema semivuoto in sostituzione della doppia versione di greco e latino. Graham, una sera di fine anno, in una casa poco lontano dal mare, in attesa che si apra di nuovo il mio paesaggio. Insomma, una distanza biografica. Ma forse è solo il piccolo passo indietro prima di ripartire. In ogni caso, nel mio personale teatro della memoria, la borsa baguette giallo limone di Marni, gonfia di soldi e documenti falsi, conserva sempre il suo posto. 4 gennaio 2020, Milano, stazione centrale 0909. Digito il codice del mio telefono per poter esibire il QR code al controllo. Lo schermo mi restituisce subito l'orario 09:09. Una coppia di numeri uguali. 2 tuorli in un uovo. Porta fortuna. Porterà fortuna. Le associazioni che ne derivano oggi sono solo beneauguranti. Più tardi, nel corso dell'anno, i significati diventeranno continuamente rovesciabili. Ma non c'è tempo per pensare. Mi dirigo verso i gates nel flusso veloce e impassibile della cittadinanza in fuga. In questa città anche la fuga è efficiente. Tregua settimanale, spostamento dalla trincea impietosa del lavoro alla gabbia dorata del turismo del Wii. Buon Wii a tutti! Ma soprattutto, cosa prevede lui? Gomito a gomito, respiro contro respiro, trascorriamo sotto lo sguardo destra-sinistra dei sorveglianti. Sono poliziotti, ferrovieri, stagisti di una società di vigilanza? Cercano terroristi, trafficanti, clandestini in diagonale per l'Europa? Forse solo falsari di biglietti. Hanno lo stesso distacco professionale di un giudice di sedia o di un guardaspiaggia. A volte fanno un cenno di assenso, seguito da qualche parola. Va bene, passi pure. E noi procediamo verso i display, ad attendere la comparsa di treno e binario. La testa all'indietro, la mandibola contratta. Sopra, la rete di vetro e ferro della volta. Davanti, la forbice di binari e rotaie. La luce della pianura oggi è una promessa. Ci sarà vento. Da anni l'uscita dalla città mi fa felice. La meta è un punto panoramico, un cabo da roca da cui osservare il futuro. Cerco la piccola ventola che lo segnala sulle vecchie cartine. Ed è il treno, il mio mezzo di trasporto preferito, delega totale al conducente, ma consapevolezza fisica del percorso. Anche nei treni ad alta velocità le tappe sono annunciate, ci si ferma alle stazioni, si cambiano vicini e lingue ascoltate. Io osservo, di solito leggo, a volte scrivo. E oggi vado a est. A inizio anno ho un proposito lodevole sotto il braccio. Ho acquistato all'edicola nell'atrio della stazione il fascicolo 2019-2020 di un settimanale di informazione, notizie, commenti, immagini. Sarà un anno responsabile e consapevole. Seguirò la confusa vita politica del mio paese con rigore e perseveranza. Thank you. Sul treno il mio posto è nel senso di marcia. Mi installo, sistemo la valigia sotto il sedile, ma non tolgo il cappotto perché ho ancora freddo. Guardo i vicini davanti a me, una coppia sui 40 anni con cuffie e un paio di dispositivi a testa. «Buongiorno!» Lei sorride, lui mi guarda, entrambi tacciono, connessi ad altri mondi. Evito di aggiungere «buon anno!» per non essere considerata indiscreta o a caccia di conversazioni non richieste. «Scusi, ma il 31B, B come Bergen, è qui?» Una protesta femminile alle mie spalle. Leggiamo insieme sul suo schermo il numero del posto indicato dal biglietto. «È 31D, come Davos», preciso, avviando una competizione suggerita. «31D, ma mi scusi». Ha un buon profumo, un viso un po' maschile, occhiali fucsia da astigmatica. Si siede, finalmente, in un acciottolio di collane, estrae dalla sacca di pelle morbida, con pesante fermaglio, un quotidiano che si colloca sul versante politico e culturale opposto alla mia rivista. Sento che contraggo le labbra, che alzo le sopracciglia. Sfodero, in questo duello fra lettrici, la mia rivista. Supero con gesto sapiente la copertina che riporta il titolo «Storie» e un'illustrazione misteriosa. Una donna con un copricapo e una maschera sul volto. La delusione è immediata di fronte all'editoriale. Il numero è dedicato ai racconti di fantascienza. Verificherò più tardi che il numero di chiusura-apertura dell'anno di questa rivista è sempre dedicato alla narrativa. Ma ora lo prendo come un piacevole invito. Il mio impegno con la realtà è rimandato al prossimo mese. Non leggerò comunque i racconti. La fantascienza. Troppo facile, mostri, umanoidi, robot. È troppo difficile, scienza, ingegneria, tecnologia, altri sistemi planetari, viaggi nel tempo e nello spazio, e ambito incerto. Favola, incubo o profezia. Non riesco a pensare all'esistenza di mondi collocati altrove. Ma sono attratta dall'apocalisse di quello in cui vivo, dal modello di Brave New World, Community Identity Stability, che ha quasi 100 anni ormai, allo strazio funzionale dei corpi di Non lasciarmi, alla geografia linguistica di Codice 46, Nigno o Nigna, sono catturata dalle distopie. Le temo, le immagino, le inseguo. Lo stesso mi succede per le catastrofi naturali, ammesso che ne esistano ancora. Ripercorro insoddisfatta la cronaca finché non trovo il modo di arrivare al punto zero del problema. Zero. Numero e scenario. Ground zero, paziente zero. Nel 2012 avevo costantemente aperta la scabra registrazione degli eventi sismici messa a disposizione dall'Istituto Nazionale di Geofisica. Rileggevo l'ora, il luogo, la magnitudo, parola sacrale e liturgica. Non si vede la terra dalla mia prospettiva, né il suolo. La città è un'isola di asfalto, né il pianeta. Come orizzonte, nei giorni più limpidi, ho il profilo delle montagne a ovest e davanti la scultura della Torre Velasca. Ma è la terra che trema, come meglio dicono altre lingue, tremblement de terre o earthquake. Vibrazione, scuotimento, è il tremoto, quello di Dante. Appena avverto il tepore tipico del treno, secco come scirocco, tolgo il cappotto, lo ripiego e lo sistemo nella cappelliera sopra il mio sedile. Ripongo il settimanale nella valigia e prendo il libro che avevo pensato di iniziare stasera. Spero in un racconto veloce e compatto, in una storia che inizi nel mezzo di un'azione, di un viaggio, che si nominino subito i personaggi, luoghi non noti, che mi resti il dubbio sulla distanza tra quello che viene descritto e la realtà. accontentata. I miei piccoli dispiaceri. So qualcosa di Miriam Teus, ma non sapevo che la sua voce, un po' timida nelle interviste, diventasse così forte e vibrante nella scrittura. Il suo discorso si increspa sui dati difficili dell'autobiografia. Uno dei personaggi, la sorella pianista, fragile e geniale, avverte nel proprio stomaco un vecchio Heinzmann verticale, interamente trasformato in vetro. Anche i tasti. La scrittrice riporta, senza commenti, accogliente, lo sviluppo dell'idea, la costruzione della sensazione. Quando sente il rumore delle bottiglie gettate nel camion dei rifiuti, o uno scacciapensieri, o perfino un certo tipo di uccelli cantare, pensa immediatamente che sia il piano che si sta rompendo. Chiudo il libro. Voglio che la musica di vetro, non quella tonda come i movimenti inclusivi del direttore d'orchestra, ma quella a spigoli, fredda, incrinata a tratti, risuoni ancora un po'. Penso ad Olafur Arnald. Una musica per solitari. Il treno supera una breve periferia, qualche vecchia stazione dell'Interland. Si fermerà al lago e in un paio di città di cui apprezzeremo solo da lontano, se il tempo tiene, l'agglomerato di case, chiese, giardini. È un percorso che conosco, un rettilineo con qualche incertezza all'inizio, sempre parallelo alle Alpi. A pettine, a sinistra, si aprono le valli, a volte verso l'Europa. Il controllore verifica il mio biglietto e di nuovo il mio viaggio viene approvato. Abbassa appena il volto per vedere chi sono e anch'io ricambio lo sguardo. È giovane? La giacca gli cade un po' dalle spalle ancora leggere, gli occhi sono seri e fermi. Mi affido. Avverto la distanza tra le nostre storie, più che tra i nostri ruoli. Al Garda c'è la prima fermata. La signora con il giornale riprovevole scende. Le nostre labbra si sorridono con cortesia. Dopo Padova, attendo impaziente il Ponte della Libertà. Lì l'acqua è quasi immobile, a destra e a sinistra del percorso. Due orizzonti, due paesaggi. Davanti le isole della città Paradigma, così significativa da sciogliere il suo nome proprio in un nome comune, una Venezia, per definire uno spazio di acque e di ponti, di passi e di voci. Oggi i canali sono verdi, in qualche punto quasi neri. Gennaio 2020, Isola di San Giorgio, 15:15. Le stanze del vetro. Sorrido, la doppia cifra ricorda un po' la mia data di nascita, troppi 5 per chiunque provi a scriverla. La visita guidata sta per iniziare. Il giovane Stearns riteneva che il Doge piangesse sulla sorte dei prigionieri della Repubblica, sottoposti a torture e maltrattamenti. La guida, Elena, abiti morbidi che nascondono i suoi 30 anni, ha una voce profonda. Thomas ci racconta mostrandoci un oggetto irregolare, arrotondato, di un inaspettato spessore, ha cercato non solo di riprodurre il cappello del Doge, ma anche di immaginare un vaso per raccogliere le sue lacrime di compassione. Osserviamo un contenitore sferico, con diverse tonalità di verde. Stearns traduceva fatti e dati in forme, in colori, con impazienza, per verificare subito le sue ipotesi creative. «I'm not a good waiter», diceva di se stesso. Stearns, Oklahoma City, arrivato a Venezia nel 1960, è un ragazzo smilzo nelle foto, abbagliato dalla luce, vestito di chiaro, un'aria distratta. Il fondo dei suoi vasi di vetro è torbido. In questo modo, afferma una studiosa della sua attività, si nascondeva la violenza dei gambi recisi. Elena ha una borsa di tela sulla spalla. Di tanto in tanto, quando si china per mostrarci qualcosa o quando si volta verso di noi per indicarci la direzione da seguire, sento un tintinnio, un suono come di diapason. Verso la fine della visita, estrae dalla sacca alcuni piccoli tubi di vetro di varie lunghezze. Quella era la musica che accompagnava la sua voce di contralto appena rauca in alcuni capoversi del discorso. «E questa è la sentinella», dice Elena a un certo punto. «Dovevano essere tre, ma una si ruppe. Imitavano le bricole, ma anche le lampade votive come richiamo alla difesa della città e a una dimensione immateriale. Nella penombra della sala guardo la sentinella. Forma allungata ma tozza, molti colori accesi dal rosso all'ocra, con una certa trasparenza, e mi piace. Luce e forza. Ma cos'è una bricola? Non importa, guarderò più tardi. Ora ho troppe informazioni e suggestioni. Una bricola e una lampada. Una sentinella inquieta». Gennaio 2020, Venezia, stazione Santa Lucia, 19:19. Ora è buio e umido, l'aria mi sembra comunque leggera. Saluto Alessandra e inizio il viaggio alla rovescia. Lo specchio dell'orario, questa volta, è una data. 1919, conferenza di pace. Si fa per dire. Rivedo la coppia con gli auricolari del viaggio di andata. I nostri viaggi sono sincronizzati, stessi orari, stessa carrozza. Io siedo sempre nel senso di marcia, loro questa volta sono alla mia sinistra. Non sono connessi ancora, guardano fuori di sé, senza vedere niente, sembra. Solo alla partenza del treno i loro schermi si illuminano, scrivono. Il movimento dei pollici è velocissimo e silenzioso, sembra che non tocchino neppure la superficie. Leggono. Il testo scorre inghiottito dal margine inferiore dello schermo. Molti gesti che riguardano la lettura mi piacciono, li ricordo con l'intensità di un sapore. Primo fra tutti quello di mostrare il contenuto di un libro a un gruppo di persone, tenendo la copertina contro di sé e aprendo le pagine verso chi guarda. Un vecchio gesto, didattico, tattile, asciutto. Ma un gesto sapiente in cui si afferma un ruolo e si rivela uno scopo. Con i dispositivi si invade invece lo spazio dell'interlocutore avvicinandoli al suo sguardo e così fa lei con il suo telefono. Incrocia il braccio destro fino a sollevarlo all'altezza del viso di lui. Non sento nemmeno un «guarda». Anche se sono molto attenta, sono incuriosita da tutte le storie che non mi riguardano. E lui, specularmente, non domanda «cosa?». Abbassa invece il suo tablet e osserva lo schermo che gli viene offerto. E finalmente, con una voce pacata, un po' nasale, «ma come la saluterà al mattino?», le spiega «South China Morning Post, ieri». Il suo inglese sembra fluido, ma con i suoni dell'italiano. Legge, tornando al suo schermo, «Local media reports said that the market sold other animals, including birds». E traduce subito, in modo approssimativo, «il mercato vendeva anche uccelli». Adesso la guarda. Ha occhi chiari e sottili, vetro e ghiaccio. Lei riorienta il telefono verso di sé. Non c'è paesaggio fuori dal finestrino a quest'ora. La Cina, i mercati in cui si vendono pesci e uccelli. Per qualche secondo vedo la testa di cammello sulla terra battuta della piazza di Gardaia e all'improvviso ricordo. A dicembre, in un'intervista televisiva trovata per caso in un database, nonostante la notizia fosse il punto zero di una catastrofe, il mio allarme personale non si era affatto attivato. Sblocco il telefono. La connessione sul treno non è perfetta, ma l'OMS ha un sito facile da recuperare e da leggere. L'eco dei nostri passi nelle fondamenta, il tintinnio dei tubi di vetro, la voce lontana di Stearns sono il tappeto sonoro della mia lenta e incredula consapevolezza. Mi resta una inspiegabile fiducia nel fiato immobile di Milano. Il suo flowchart impeccabile organizzerà le nostre ansie. Rientriamo disciplinatamente una domenica sera.